4B. Ascolta e trasforma. Guidiamo bene? No, non guidiamo bene. Riserviamo un tavolo? No, non riserviamo un tavolo. Ceniamo in terrazza? No, non ceniamo in terrazza. Entriamo in acqua? No, non entriamo in acqua. Continuiamo la lezione? No, non continuiamo la lezione. Salutiamo i professori? No, non salutiamo i professori.